si yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. L'elemento fondamentale della filosofia dei supereroi è che abbiamo un supereroe e il suo alter ego. Batman è di fatto Bruce Wayne. L'uomo ragno è di fatto Peter Parker. Quando quel personaggio si sveglia al mattino, è Peter Parker. Deve mettersi un costume per diventare l'uomo ragno. Ed è questa caratteristica che fa di Superman l'unico nel suo genere. Superman non diventa Superman. Superman è nato Superman. Quando Superman si sveglia al mattino, è Superman. Il suo alter ego è Clark Kent. Quella tuta con la grande S rossa è la coperta che lo avvolgeva da bambino quando i Kent lo trovarono. Sono quelli i suoi vestiti. Quello che indossa come Kent, gli occhiali, l'abito da lavoro, quello è il suo costume. È il costume che Superman indossa per mimetizzarsi tra noi. Clark Kent è il modo in cui Superman ci vede. E quali sono le caratteristiche di Clark Kent? È debole? Non crede in se stesso? Io più volte citai questo monologo indimenticabile pronunciato da David Carradine, naturalmente qui è il suo doppiatore, immaginate che ci sia la sua voce, perché lo trovavo l'epitafio più calzante per descrivere le ansie, le pretese, le vaneglorie della contemporaneità, che racchiude nel supereroe il punto più alto delle proprie attese nei confronti di una metafisica che non è più tale. David Carradine, alias Bill, nel momento finale, cruciale della saga di Tarantino, mentre appunto ha la sua sposa accanto, narcotizzata dal siero della verità, esprime, prima di morire anche lui naturalmente, questa meravigliosa filosofia per cui fra tutti i supereroi il vero supereroe è proprio Superman, perché in realtà Superman è lui, Clark Kent è il suo camuffamento, mentre per tutti gli altri supereroi sono esseri umani camuffati come se fosse un carnevale a supereroi. Beh, su questa lettura del supereroe, rende ancora più tragica e grottesca la notizia di questa mattina, che mi addolora perché è stato uno dei miei miti fanciulleschi, adolescenziali ed anche senili, David Carradine, da quando faceva Kung Fu a quando naturalmente è stato ripescato e riproposto da Tarantino come icona di se stesso, come storicizzazione gloriosa di un sottogenere di narrativa come appunto i telefilm anni 70. Sapere la notizia data dai giornali di oggi, ma aggiornata questa mattina su internet, che è stato trovato morto in un albergo di Bangkok alla veneranda età di 72 anni, si pensava in un primo tempo suicida, impiccato, ma questa mattina la specifica è grottesca e rende ancora più grottesco tutto il suo meraviglioso narrare sul concetto di umano e superumano. È stato trovato morto in realtà in un complicato, astruso e fantasioso gioco erotico, perché il cappio che lo ha strangolato era anche attaccato ai suoi genitali, quindi non si sa bene cosa si sia arrovellato comunque e cosa andava a cercare in quell'albergo di Bangkok solo, con altri, accompagnato. Comunque sì, è morto in circostanza tragica. Nella narrazione parallela alla sua vita di Tarantino, muore in un altro paradossale sistema, con i 5 colpi che fanno esplodere il cuore. La sposa gli darà queste 5 tastate al torace, lui morirà fra 5 passi, gli scoppierà il cuore, e l'altra notte nell'albergo di Bangkok gli è scoppiato il cuore e forse gli è scoppiato anche qualcos'altro. Da separato sento che sta chiedendo cosa succede dopo. Dopo è come cambiare macchina, è proprio come cambiare macchina. Quando si cambia macchina si è contenti perché si trova qualcosa di più fresco, c'è i sedili in pelle, qualcosa di meglio, colore nuovo, è più giovane, ma dopo qualche tempo le gomme sono da cambiare, l'assicurazione è da pagare, il bollo pure. E questo è reciproco, mi rendo perfettamente conto che succede sia per chi ha desiderato questa separazione, sia per chi come me l'ha subita e poi si è trovato un'altra donna. La verità è che gli uomini non hanno i maroni per impegnarsi, la società è consumista, le donne sono consumiste come gli uomini, quando la macchina è rotta ti conviene tenerla, non la metti a posto, la cambi. È uguale, vale per i rapporti. Quando i rapporti sono così così, invece di affrontare i problemi e tenere duro, arrivare a 30-40 anni di matrimonio e fare tanti sacrifici o anche a 10, la gente un anno, due anni dopo che sono sposati o convivono si lasciano. Ed eccoci dunque all'argomento di oggi. Sono Clark Kent o sono Superman questi signori che ripropongono la nuova scommessa sulla loro vita matrimoniale come se fosse un cambio d'auto? Cambi l'auto, hai un'auto nuova, ne sei entusiasta, ti sembra tutt'altra cosa, poi passato il primo, il secondo tagliando, ti accorgi che in fondo è un'auto e quindi come auto è sottoposta alla disgregazione dei suoi componenti meccanici e quindi prima o poi anche l'auto nuova diventa un'auto vecchia. Il tema di oggi è quelli che ci riprovano, quelli che si risposano, quelli che ritentano tutti a fare lo stesso passo una seconda volta. E qual è il passo di cui parliamo? È il passo di una scelta per la vita, è una relazione che si conclude, si cementa attraverso un atto pubblico. Quando un uomo si risposa, quando un uomo ritenta nuovamente la strada del matrimonio, probabilmente ha la stessa illusione tipica da Clark Kent, che non diventerà mai Superman, di riavere nuovamente vigore. Era uscito ieri una di complicatissima ricerca clinica medica fatta in un paese scandinavo che non ho ben presente, per cui dice che gli uomini che ritrovano compagne più giovani vivono più a lungo, quindi c'è questa sorta quasi essenza della lunga vita. Sembra di rileggere quei manuali unioni taoiste che andavano tanto di moda negli anni della riscoperta dell'Oriente, della rilettura dell'Oriente dai nostri fricchettoni locali. Bisognava avere lunghi, estenuanti, lancinanti e mai conclusivi rapporti con donne molto più giovani per mantenere intatto il proprio fluido vitale. Ma non si tratta di questo, si tratta di risentirsi nuovamente Superman quando si è Clark Kent. Credo che le donne in parte abbiano ragione. A noi piace specchiarsi, guardarci, compiacersi tra di noi, a noi stessi. Siamo un po' distratti più da noi stessi che dalle donne. Secondo me il problema non è che non ci sono più uomini o non ci sono più donne, come potremmo dire magari noi, è che non ci sono più adulti. Viviamo in una società di adolescenti, è quello il vero problema. 800 24 0024, aspetto le vostre telefonate, perché questa mattina non ho pensato di chiamare esperti. Cosa potrebbe dirmi uno psicologo, cosa potrebbe dirmi un sociologo, cosa potrebbe dirmi un avvocato matrimonialista, se non quello che possono dirmi persone che hanno attraversato questa esperienza. Non è che banalmente mi sono svegliato questa mattina e ho detto beh, oggi parliamo delle seconde nozze. Ho davanti un dato dell'Istat per cui aumentano le seconde nozze, sono in crescita, c'è una rilevazione del 2007, i matrimoni sono cresciuti in ragione del 13%, i secondi matrimoni. Crescono le unioni naturalmente con rito civile, perché le seconde nozze con rito religioso presuppongono un iter un pochino più complicato e un pochino più lungo. E quindi riprovarci una seconda volta significa che la necessità, l'istituzione, il desiderio comunque di avere un'unione stabile, come abbiamo visto nel corso di tante altre nostre trasmissioni, non è che è solamente una sorta di ansia che prende le donne nel momento in cui loro orologio biologico gli fa dire che non hanno davanti poi un'eternità per poter costituire una famiglia con tutti i derivati annessi possibili, ma è una ricorrente segnale che prende anche gli uomini. Gli uomini a un certo punto sembra che hanno questa sorta di desiderio di dire riproviamo, ricominciamo da capo. Capita nel corso di tutte le unioni stabili che ci siano momenti di distrazione, momenti in cui ci si ripresenta e ci si ripone il problema di come potrebbe essere la vita diversamente se non imbrigliata in quegli obblighi che naturalmente una vita di coppia prevede. Tutto farebbe pensare che l'alternativa alla vita di coppia potrebbe essere una vita di grande libertinaggio, di grande libertà o di grande sicurezza della propria capacità anche di stare soli, di alternare la solitudine con sporadiche unioni che non riproducano il modello a cui si è uscita. Invece, come diceva il signore all'inizio, la sensazione sia quella che in fondo si pensa che una moglie possa essere cambiata quando oramai dà i segni dell'usura del tempo passato, come si cambia un'automobile. Il mercato dell'auto, soprattutto il mercato dell'auto straniera, è molto fiorente, presenta ottime occasioni, quindi perché non buttarcisi? 800240024, quanto siete testimoni di persone che ci hanno riprovato, quanto voi ci avete riprovato, quanto è diversa veramente la seconda volta rispetto alla prima, ma vediamo che probabilmente il dato nuovo che la seconda chance è diventata qualcosa che può essere tranquillamente contrabbandato come una scelta popolare, una scelta alla portata di tutti, quando una volta si pensava, ma una volta non parlo nemmeno di millenni fa, che fosse una sorta di elitario privilegio quello di riprovare in maniera molteplice il brivido e l'ebbrezza del matrimonio. Mila Jovovic ci riprova dopo il fallimento dei suoi precedenti matrimoni con Sean Andrews nel 93 e con il regista Luc Besson nel 97. La Jovovic presto convolerà nozze con il regista britannico Paul William Scott Anderson. Paul McCartney va verso il terzo matrimonio. Il Sandy Mirror ha riferito che il 66enne ex Beatle ha deciso di sposarsi con Nancy Shewell, un'ereditiera americana di 49 anni con cui si frequenta l'anno scorso dopo il divorzio da Heather Mills. Uma Thurman che ha annunciato che sposerà il miliardario svizzero Arpad Busson. Il matrimonio per la Thurman sarà, pensate, il terzo. Ecco, il mondo che sta ad osservare, il mondo delle persone normali, il mondo delle persone che vivono concretamente la realtà, il mondo delle persone che hanno problemi legati alla loro consistenza quotidiana, problemi di tipo pratico, che non si pongono il problema dell'apparenza come quello più importante, guardano il mondo dei grandi, vedono che l'alternanza è un esercizio che naturalmente rafforza anche l'immagine nelle scacchiere delle combinazioni fra personaggi dello spettacolo, dello star system e fra le loro successivi nuovi e fantasiosi assemblaggi nasce anche la possibilità di consolidare la loro immagine o ridare freschezza e vivacità alla loro immagine. Ma una persona calata in una banalissimo contesto sociale non lo fa certo per mettersi in mostra, per farsi vedere, per far parlare di sé, lo fa perché ci crede, lo fa perché improvvisamente, come se si sorseggiasse il siero dell'oblio, ci si dimenticano tutte le fattispecie che ci hanno avvelenato quella scelta di vita comune e sembra quasi possibile che un'altra persona si possa ricominciare da capo. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno. Ecco, lei è il primo testimone di questa fattispecie. Lei è separato e dopo 27 anni di matrimonio sta ricominciando da capo. Sì, esatto. Io ho vissuto una vita con una persona, siamo stati sposati per 27 anni e poi il rapporto è lentamente scivolato nella quotidianità, riempendo il suo significato con lo status, la condizione, benessere economico e svuotandosi sempre di più di quello che era i sentimenti. Beh, come gioco forza quindi... che accada adesso, io le persone che mi dicono che dopo 27 anni ancora come il primo giorno, io sono convinto che sia una questione di decisione, di impegno. È chiaro che non sarà mai qualcosa che fa palpitare il cuore come i primi giorni o come i primi tempi, come i primi decenni. È chiaro altrettanto che uno può lecitamente e volontariamente decidere che la propria vita deve avere un senso diverso, quindi fa una scelta diversa. Quello che oggi ci chiediamo però, Giancarlo, è perché questa scelta diversa va a ricalcare come se fosse una sorta di rotaia la scelta precedente. Perché la persona che dopo 27 anni di matrimonio decide, beh, basta, non mi va più di questo tipo di vita, alla fine rimette sulle basi per rifare la stessa cosa con un'altra persona, probabilmente per altri 27 anni? Beh, no, sostanzialmente no, credo che si arrivi a un certo punto in cui, ripeto, nella quotidianità, ci si accorga che ci si è inariditi. Beh, questo l'abbiamo già detto, della prima automobile ci si è stufati. Ecco, diciamo la possibilità di riniziare un percorso completamente diverso, questo è quello che personalmente sto vivendo, con dei modelli di comportamento anche completamente diversi, che forse fanno parte di noi stessi e che sono sopiti, quella che è veramente una vita nuova. Beh, uno è chiaro, una persona nuova ha l'idea che possa ricominciare tutto da capo, all'inizio ci si ricomporta, scusa se io vado a scarnificare la storia, ma voglio mettere a luce quello che è un problema, penso, comune. All'inizio si ricomporta come fidanzatini, non si fanno più gli sbagli di prima, non ci si accascia davanti al divano e ci si addormenta, non si gira in ciabatte, ci si cura più il fisico, si fanno viaggi, si vedono gente, ma tutto questo poi andrà a sfociare, gioco forza, nello stesso modello che si è già passato, questo lei lo sa. Sì, sostanzialmente, ma non è tanto, direi, al di là del fatto che appunto le energie o le novità, come in tutti i rapporti, al di là dei rapporti affettivi, anche nei rapporti di amicizia, indubbiamente c'è questa spinta legata alla novità, ma direi che la spinta è anche legata al cambiamento personale, avere il coraggio di intraprendere le strade forse che prima non si intraprendevano. Sentiamo cosa dice Gianluca, un altro Clark Kent che vuole diventare Superman oppure un Clark Kent destinato a rimanere Clark Kent. Gianluca, buongiorno. Secondo lei, chi si risposa in seconde nozze fa un errore? Pronto? Sì, la sto sentendo. Ah, salve, Gianluca, buongiorno. Allora, io facevo questa piccola riflessione in base anche a quello che è stato detto in merito alle autovetture. Allora, se io acquisto un'autovettura, sicuramente dopo qualche anno diventerà vecchia. La cambio, ne acquisto un'altra, diventa vecchia anche quella. Se io invece di acquistare un'altra autovettura la prendo a noleggio, non ho il problema. Sì, io prendo una motocicletta, prendo una bicicletta, uno skateboard. Io sono sposato da 3 anni. E già si pone il problema? No, io me lo sono posto prima di sposarmi e il giorno dopo essermi sposato. Se io oggi domani dovessi decidere di lasciare mia moglie, non interromperei il rapporto con mia moglie, interromperei il rapporto, la figura stessa del matrimonio. Sì, bisogna vedere se sta bene a sua moglie. Risposarmi di nuovo, oppure riavere un'altra... Melog 2.0 800 24 0024. Mi rendo conto delle reazioni che leggo e che vedo, che forse il paragone fra prima moglie e automobile da cambiare non è certo dei più felici, soprattutto dal punto di vista delle donne. Ma svegliatevi donne, chiamate 800 24 0024, ne avrete da dire dalle vostre parti. Cosa ne pensate di questi uomini sulla cinquantina? Ahimè, quando dico sulla cinquantina sembra che parli di qualcosa che non mi appartiene. Anche io sono sulla cinquantina, anzi da un bel pezzo, che a un certo punto della loro vita guardano la moglie coetanea, magari lievemente più giovane, dicono: cosa ci faccio io con questa scarpa vecchia? E si buttano e si tuffano sulle ventenni, sulle trentenni, sulle straniere generosissime e tonicissime, e improvvisamente si sentono di poter fare questo secondo passo. E poi, ahimè, cosa riportano a casa? Come tornano a casa? Come tornano con le orecchie basse? 800 24 0024, questa mattina, è la sindrome di Clark Kent, che ci è venuta ricordando David Carradine, che noi pensavamo un supereroe del Kung Fu, che è morto strangolandosi assieme sia l'apparato fonatorio che anche l'apparato riproduttivo. Bruno, buongiorno. Buongiorno. Per non finire, anche noi come David Carradine vediamo un po' di uscire da questo dilemma dell'alternativa quando ci si sente stanchi della donna che si è accanto. Ma intanto David Carradine, l'ho visto in Bill Killer, non mi sembrava profondamente un supereroe, intendiamoci bene. Sì, era un infame pappone che teneva una scuderia di donne, però era un vecchio mito, quindi lo celebriamo per ciò che rappresentava nei telefilm di Kung Fu. Sì, era bravissimo come interprete, però non interpretava un supereroe. Vabbè, il discorso che volevo fare io e che mi viene spontaneo è dovuto al fatto che avete paragonato questo cambio di persone nella vita di altre persone come un cambio di automobile. Sì, è stato il primo ascoltatore che l'ha detto, c'è un po' come cambiare la macchina, non che io condivida questa idea. Io non condivido questo, ma penso che soprattutto non lo condivida la maggior parte delle persone che attua questa scelta. Sì, ma cosa sa qual è, scusi, il fatto su cui mi piacerebbe insistere? Che cambiare auto ci si trova di fronte, se uno entra... Diciamo che gli esseri umani guidatori si dividono in due categorie. Io sono di quelli che hanno una macchina, un'automobile da 13 anni, non la cambia, funziona, non me ne importa nulla. Parlo di automobile vera, con quattro ruote. Le volevo fare un riferimento a un'altra trasmissione che lei ha fatto, che parlava delle nostre infanzie, perché insomma possiamo dirci nostre, no? Voglio dire, siamo coetanei, no? Sì, tutti abbiamo avuto un'infanzia. In cui si dava noia alle lucertole, si bruciava le formiche con la lente a ingrandimento, queste cose qui, no? Sì. Questi sono momenti in cui le persone acquistano la loro personalità, in cui dicono, vabbè, oggi ho ammazzato una lucertola, ho bruciato una formica, non mi appartiene. Questo mondo qui non mi appartiene e quindi io d'ora in poi farò cose diverse. Quindi lei il problema di chi cambia spesso la macchina e si trova sempre di fronte al problema di dover fare dei tagliandi è che non ha bruciato abbastanza formiche da ragazzino? È che non ha avuto abbastanza esperienze tale da farsi una sua adultità, diciamo, di carattere, di personalità. C'è un termine, quindi che lo non dico... non sa quello che vuole. C'è un termine che usa molto le mie contrade che definisce bene quest'idea, lo dico anche se è lievemente volgare, si dice culo che non vide mai camicia, cioè un parvenu della relazione che non si rende conto quando la relazione cresce e si logora, è il momento buono in cui uno deve mostrare proprio la sua capacità di tenersela assieme, anche perché cambiare macchine in maniera compulsiva, qua non voglio fare un discorso né moralista né conservatore rispetto all'istituzione matrimoniale, uno faccia quello che vuole, solo se l'idea di cambiare macchina ci si mette nell'idea che ci si risiede al volante di un'automobile che prima o poi avrà bisogno di fare il tagliando. La mia idea è che se uno si stufa di guidare l'automobile vada in motocicletta, questa è l'idea che dicevamo noi. Sì, il discorso è che ci sono persone che vogliono certe cose nell'ambito del rapporto matrimoniale e altre persone che non lo sanno di preciso. Allora, io appartengo alla schiera di persone che invece sa quello che vuole nell'ambito di un rapporto matrimoniale e nel momento in cui non la trovo mi disaffeziono, questo è chiaro, c'è una delusione, c'è una depressione dopo la delusione, intendiamoci, non è che sono fasi concitate come a volte può sì, sembrare. È ripercorrere la stessa strada con un mezzo simile e... con l'illusione che il punto d'arrivo possa essere diverso. Ma sentiamo finalmente, chiama una donna, Orsolina, buongiorno. Ah, buongiorno Gianluca. Allora, mi presento, ho 62 anni, sono un medico di base massimalista e la mattina vi sento in radio, in macchina, perché così. E allora, sono stata lasciata dal consorte all'età dei 50 anni. Perché ha comprato un'altra automobile? Beh, certamente. E ora io sono serena, ci scherzo, e perché sono passati 12 anni, quindi la storia è stata rielaborata. Vabbè, era una ragazzina quando è stata lasciata, aveva 50 anni. Appunto. Però l'idea che mi sono fatta è che l'uomo, cioè l'individuo di genere maschile, dopo una certa età, quando la moglie va in menopausa, mancano quei ferormoni, manca quell'odore che lo attraeva. Ma questo, guardi, mi meraviglio che lo dica un medico, scusi se mi permetto. Certo, ma questa è una delle più grosse banalità che ho mai sentito dire, che una donna cambia odore quando va in menopausa. Ma cambiano i ferormoni. Sì, è chiaro, cambiano gli ormoni, ma che se una donna debba sentirsi meno donna perché va in menopausa, lo nego assolutamente, per esperienza personale, conoscenza e frequentazione. È una delle più grosse banalità moderne di dire che una donna in menopausa è meno donna. È una donna come le altre che non può più generare. Se dice lei questo, giustifica il fatto che la donna in menopausa è come una macchina, che un'automobile che ormai ha fatto troppi chilometri e va cambiata. No, io voglio dire che gli uomini maschi non è un fatto psicologico, è un fatto proprio fisico. Ma io guardi, sono un grande estimatore della fisicità, ho sempre fatto grandi, a mio rischio pericolo, valutazioni proprio sulla perdita del senso della carnalità, che è una delle più grandi lacune dell'uomo contemporaneo. Però non me la sento di far passare che una donna perde l'odore. No, non è che perde l'odore se perde l'estro, se perde la voglia di vivere, se perde la fantasia di vivere. Ma un cambiamento oggettivo ormonale non la fa sentire meno donna nella percezione. Ci sono signore trentenni che sembrano scarpe vecchie, anche se hanno tutti i feromoni al posto loro, o viceversa, ci sono uomini che non hanno nulla di maschile, anche se hanno fisici perfetti. Io trovo sia più una condizione, un atteggiamento nei confronti della reciprocità e dell'interscambio, perché sennò sarebbe una condanna: tutte le donne vanno in menopausa, si accende la lampadina rossa e vanno messe in un angolino. Ma non lo so, lei lo dice da medico, io rispetto l'opinione di tutti, però se permette vivacemente dico la mia, perché io trovo che dei segnali le donne li mandino sempre, ogni età. Certo, non vogliamo dire che c'è un certo punto in cui l'aspetto esteriore è oltre ogni concupiscenza, questo accadrà a tutti prima o poi, però che dire che la menopausa sia una sorta di segnale fatale della perdita di femminilità e quindi della possibilità di essere abbandonate come scarpacce, mi sembra un po' troppo, sinceramente. D'accordo. Grazie Ozzolina. Nicola, buongiorno. Nicola. Buongiorno. Io sono un 54enne, quindi sono stato 20 anni sposato e poi, diciamo, per motivi quasi banali mi sono separato. Ma io credo che ci sia una... Lei è d'accordo su quello che dice la signora, che le donne... Assolutamente no, non c'entra niente. Io mi sono risposato. Il problema è questo: cosa uno vuole? Io personalmente non volevo la giovincella, perché se la volevo me la andavo a trovare al night club, volevo una donna. Come antico, al night club, chi ci va più al night club? Ma nemmeno i braccianti rumeni vanno più al night club. Io 5-6 anni fa andavo al night club e andavo con le russe, con le rumene, con l'ungheresi. Ma quelle le pagava, però, scusi. Ma non è vero che si pagava, pagavo la bevuta e poi mano a mano ci si conosceva. Non, sì, non ma non mi, dica, non mi dica che era gratuito. Io ho avuto una relazione con una spogliarellista ungherese e non ho pagato una lira, quindi come vede non c'è... No, non si arrabbi, io la sto provocando perché mi fa sorridere. No, ma le sto dicendo come stanno le cose. Cioè, bisogna vedere cosa uno vuole. Io poi ho avuto la fortuna di trovare una donna che aveva quasi la stessa età della mia ex moglie e qui mi sono trovato benissimo. Non cerco né cose strane né altro. Cioè, la mia natura è da uomo sposato, da familiarista. Cioè, a quel punto mi fermo, non vado a cercare macchina nuova, macchina vecchia. È proprio nell'essere uomo, essere maschio, mi sta bene questa seconda soluzione. Ho eliminato i problemi che hanno creato la prima separazione, di cui peraltro sono stato io il responsabile, sono stato io il cattivo, lo ammetto. Eliminato questi problemi, io ho risolto un sacco di problemi. Cioè, i maschi, gli uomini, devono anche mettersi di fronte a una cosa: noi siamo fondamentalmente dei gran bambinoni e a questo punto dobbiamo ogni tanto crescere, e quando cresciamo finiamo. Cioè, è troppo facile dire vado a cercare maggio vincere. L'importante è che la nostra crescita non sia a scapito del sistema nervoso di chi ci sta vicino, soltanto questo. Assolutamente sono d'accordo così. La crescita deve essere interna, assolutamente. Io nella mia prima relazione sono stato un grandissimo, scusando il termine, bastardo. E nella seconda relazione questa cattiveria interna, questa paraculaggine, usiamo questo termine, l'ho completamente... Quindi è stato diciamo, terapeutico il passaggio con la spogliarellista. Grazie, buongiorno. Melog 2.0. Come celebrare le seconde nozze? In generale la cerimonia delle seconde nozze è più discreta, anche se si celebra un matrimonio religioso. Ecco alcuni suggerimenti. Gli invitati non saranno molti. La sposa non si veste di bianco e non porta il velo. Gli inviti vengono comunicati a voce o per telefono. La notizia si rende pubblica a matrimonio avvenuto. La sposa viene accompagnata all'altare dal futuro marito. Non si suona una marcia nuziale. Nessun paggetto o damigella precede la sposa. Il pranzo avverrà in presenza di pochi amici, oppure puoi scegliere semplicemente un brindisi. I figli sono liberi di decidere se partecipare alla cerimonia. Infine, è da evitare l'invito all'ex coniuge. Non è segno di buon gusto, a meno che i rapporti non siano eccellenti. Vedete che nelle seconde nozze cambia lievemente anche l'aspetto cerimoniale, si è fatto tutto più discreto, nulla deve riproporre il fasto e la gioia delle prime nozze. Perché? Perché è già un passo che si sa già di ripiego rispetto al primo. Ma abbiamo a questo punto, visto che ci stiamo interrogando su uomini e donne che fanno il secondo passo, che ci ripongono un'altra volta, che reinvestono nella direzione di un rapporto stabile, la schiera invece di quelli contenti e felici che benedicono il momento che hanno conosciuto la persona con cui stanno ancora assieme, come Enzo ad esempio. Enzo, buongiorno. Buongiorno. Lei non è d'accordo con quello che sta ascoltando? Perché esatto, non sono d'accordo di molte cose che hanno detto, perché io sono sposato, calcoli, quasi da 40 anni e per me la mia macchina cerco di tenerla il meglio possibile. Sì, però si è fatto, leggo dalla scheda, qualche giretto anche con altri modelli, per dire quello poi è quello migliore, o sbaglio? Quando voglio provare un'altra macchina, ma roba di... Diciamo, può abbassare la radio, Enzo, scusi, se no la sentiamo male. Scusami. Quando voglio provare un'altra macchina, la cerco, la provo per qualche giorno, per un giorno e finisce lì. Perché per me la mia macchina mi piace coccolarla, mi piace lucidarla, tenerci, anche se ogni tanto mi dà qualche guasto, a meno che non sia un guasto gravissimo. Ma fino adesso non ne ho avuti. Ma lei, cioè, se mai posto il problema che qualcun altro potesse fare un giretto con la sua macchina? Scusi, ma visto che... Guardi, io sinceramente ho piena fiducia della mia macchina. Poi tutto può succedere nella vita, però vedo che lei ci tiene molto, perché io la guido molto bene, quindi non credo, almeno non penso, che possa fare un giretto con qualcuno. Ma anche lei penserà la stessa cosa del suo pilota, dirà guarda come lo guido bene, e quindi... Ma credo di sì, guardi, sinceramente, come le ripeto, io l'ho cresciuta. Sa perché, lo sa perché dico questo? Cosa? Nei rapporti stabili e lunghi è sempre un gioco di sottintese, sempre un gioco di attese, è sempre meglio non porsi domande, non farsi domande, perché se uno comincia a farsi domande... Non ci penso, io non ci penso mai a queste cose, però come le ripeto tutto potrebbe succedere, però vedo che non mi fa mancare nulla, ci tiene a me e... Va bene, quindi siamo contenti. Buon viaggio. Roberto, buongiorno Roberto. Un altro dopo 30 anni passati meravigliosamente. Pronto? Sì, buongiorno. Ecco. Lei sta parlando della meraviglia metafisica di allungare i piedi sul divano e trovare il piede della moglie accanto. Sì, ed è una cosa bellissima. Andare con le ciabatte per la casa è altrettanto bella, parlare davanti alla televisione senza curarsi di quello che stanno facendo è altrettanto bella, questo accade da 30 anni quasi tutte le sere. Quindi lei non si pone i problemi degli autosaloni, dei giri prova, dei cambi no, d'auto? Anche per, no, assolutamente no, anche perché 25 anni fa, no, 30 anni fa, quando ho conosciuto mia moglie abbiamo comperato una macchina meravigliosa che non mi sogno di cambiare assolutamente, perché dipende che macchina si compra per pensare di poterla cambiare. Va bene, speriamo che abbia marmitta catalitica e sia a norma con le regole dell'inquinamento. Gabriella, buongiorno, finalmente buongiorno, un'altra domanda. Buongiorno. Cosa ne dice di questi discorsi? Mi è piaciuto molto l'ultimo signore. Matrimoniali automobilistici. Grazie, quello rassicura tutto, ecco, tutti. Mi è piaciuto. Quello tutti di vorremmo prima, sentirci guardi, dire questo. Il signore che ha parlato prima, mi pare che si chiama Senso, e credo che sia un illuso totale, che è convinto che la sua moglie sia ancora lì ad aspettarlo. E fondamentalmente io penso... E lei come la vede? Situazioni del genere? Perché gli uomini spesso dicono, io sì, faccio i giretti all'autosalone, ma la moglie è lì che mi aspetta sempre, perché io sono... La moglie che l'aspetta, penso che sia un'illusione di questo tipo di uomini. E credo ma tutti che ci illudiamo, guardi, questa è un'illusione che ci poniamo tutti. Ma però vede, noi siamo i Clark Kent che siamo convinti di essere, ecco, Superman. Siete convinti di avere vicino la donna perfetta, mi auguro, per quel signore che non lo sia tanto. Per quanto riguarda gli uomini che cambiano macchina, io penso che l'uomo cambi macchina o cambi donna o arrivata a una certa età si imbarchi un pochino, sia soprattutto perché ha fondamentalmente la paura di morire da tutti i punti di vista. E quindi si ha un attaccamento in fondo alla vita, mentre noi donne siamo più forti, l'uomo fondamentalmente è un essere molto fragile. Quindi l'uomo deve riprovare a un certo punto la sua avventura esistenziale a se stesso, che ancora ha un valore sul mercato. Può avere un futuro, mentre la donna lo sa di avere un futuro. L'uomo è più fragile, è un essere un pochino... Sì, questo è verissimo, ma vuole farci una colpa, io lo ammetto candidamente. No, non è una colpa, è una constatazione. Però le è così, donne sì, è vero. Sono più forti, riescono ad affrontare meglio la vita e quindi riescono più a... O si rassegnano più facilmente, diciamo così. No, non è che si rassegnano, tengono duro, sono forti e quindi riescono a mantenere i rapporti più a lungo proprio perché lo dico dalla parte di tutti i maschi in ascolto. Questa nostra fragilità in fondo a noi piace e l'ammettiamo con grande candore, invidiamo la tenuta e l'austerità e il senso etico delle donne che giustamente sono più forti, ma consideriamo molte volte il non volersi rassegnare una maniera per sentirsi vivi, ecco. Certo, ma no, sto parlando in maniera del tutto più senso etico e si fanno guidare meno da alcune cose. Sì, sì, però guardi, il senso etico non sempre dà la felicità. Mi dispiace doverlo dire, lo dico dannandomi l'anima, ma sono convinto che sia così. Gabriella ha parlato, Annalisa. Annalisa. Un attimo che sono in macchina, adesso mi accosto. Per rimanere in tema degli automobili. Come dicevo in redazione prima, sono separata e dopo 20 anni di matrimonio e assolutamente non mi risposerei mai. Ritengo che l'uomo sia fondamentalmente un bambino. Lo diciamo sempre. Sì, un bambino che basta soddisfargli i suoi bisogni primari, mangiare, dormire e anche il letto, che il rapporto può continuare all'eternità. Ma quali sono gli altri bisogni da soddisfare, signora? Per capire. Sono praticamente questi. La donna invece ne ha molti altri, come teatro, cinema. Vabbè, quelli sono passatempi, non sono bisogni primari. No, la donna non ha, diciamo così, dei bisogni primari come lo ha l'uomo. L'uomo è fondamentalmente legato a questi tre bisogni. La donna no. Mi consenta, quando una donna dice questo, scatta un moto di tristezza. Noi vorremmo donne piene di bisogni primari da soddisfare, saremmo felici di questo. Il bisogno primario della donna è il romanticismo. Ecco, questo è il motore che tiene in piedi tutto. Che signora, purtroppo a noi fa accapponare la pelle, o almeno dopo una certa età, è bruttissimo dirlo, io lo dico... Perché non c'è più, dopo una certa età, il romanticismo per l'uomo non c'è più. Sì, la è donna vero. Ancora si illude e a volte viene conquistata dal primo uomo che le fa qualche gentilezza. Quindi lei, signora, sarebbe disposta a ricominciare se trovasse una persona... proprio. Ma nemmeno di fronte a una persona romantica? No, perché tanto mi sono resa conto da esperienze successive che comunque gli uomini sono tutti uguali, così come grosso modo le donne. Vabbè, questo è come gli uomini dicono, le donne sono tutte di facili costumi. No, non è così. Se uno, come diceva quel signore, trova la sua esatta metà, diciamo così, sì, che è un'illusione, con cui possa mantenere il dialogo, perché con il tempo, purtroppo, la menopausa fa diminuire la libido. Insomma, sì, signor, basta, adesso siamo in conclusione. Io di questa terrificante banalità non voglio più sentirne parlare. Io spero che di fare presto una trasmissione in cui mi parleranno ascoltatrici post-menopausa e mi decanteranno gloriosamente la loro libidine intatta. Ci sentiamo lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.